E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Allora, ferie finite per tutti? Attenzione che ci aspetta una stagione ricca di impegni e di incombenze. Per molte famiglie sono in programma anche le assemblee condominiali e per qualcuno è in programma una riunione molto infuocata, semmai ci fosse bisogno di rendere ancora più infuocate le assemblee di condominio. Perché? Perché è in arrivo una piccola rivoluzione. I più attenti di voi lo avranno letto negli ultimi giorni sui giornali. Qualche giorno fa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha emesso una sentenza che sarà destinata ad animare ulteriormente le assemblee condominiali e forse a far scoppiare anche qualche litigio in più. Noi speriamo di no. Forse questa pronuncia servirà anche a velocizzare molte decisioni. In ogni caso non mancherà questa pronuncia di complicare la vita a qualche amministratore. Allora, sicuramente saprete che per determinare le quote di spese di singoli condomini si usano le tabelle millesimali. Bene, fino ad ora per rivedere queste tabelle occorreva l'unanimità in assemblea. Secondo la Cassazione, d'ora in poi basterà una delibera che venga votata dalla maggioranza dei presenti in assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi. E allora, cosa implica tutto questo? Che portata ha questa pronuncia, questa sentenza? Davvero provocherà più contenziosi in condominio oppure magari servirà anche a qualcosa di buono, di positivo? Stamattina cercheremo di capirlo con l'aiuto di un esperto del Sole 24 Ore che già su questo tema ha scritto, l'avvocato Eugenio Correale, responsabile dell'ufficio studi della NACI di Milano, l'associazione degli amministratori di condominio. Io lo saluto, avvocato Correale, buongiorno, spero che abbia trascorso delle vacanze serene, perché credo che anche per lei, alla luce di quello che racconteremo questa mattina, forse il mese di settembre sarà bello intenso in termini di lavoro. Buongiorno. Buongiorno dottoressa, sì, l'agosto è stato splendido anche se è abbastanza di lavoro, comunque ci prepariamo a settembre a questa novità che dovrebbe forse anche stemperare alcuni dissidi, non è soltanto destinata ad incrementare le polemiche. Le conflittualità, benissimo, la ringrazio anche per sottolineare questo aspetto, perché insomma tutte le volte che pronunciamo questa parola magica condominio ci vengono solamente in mente i disagi, i conflitti, come dicevo, le discussioni, e invece insomma la vita di condominio è anche qualcos'altro, e allora noi magari ci soffermeremo anche su questo questa mattina. In ogni caso, sul tema della revisione delle tabelle millesimali, stamattina mi viene la E stretta da un paio di volte, non so per quale motivo, potete naturalmente farci anche le vostre domande. Se avete letto di questa sentenza della Cassazione e volete appunto capirne qualcosa di più rispetto alle conseguenze che potrà avere anche nell'ambito della vostra vita di condominio, 800 24 00 24 per farci le vostre domande in diretta, ma ce le potete anche scrivere al 349 238 6666. Sui temi di borsa avete già sentito le anticipazioni nel giornale radio. Oggi è una giornata piuttosto movimentata ancora una volta sul mercato delle valute, sul Forex. Perché? Perché è ripresa la corsa dello yen, che si era stemperata solo parzialmente ieri alla luce delle annunciate misure della Bank of Japan, della banca centrale del Giappone, per ridare sostegno all'economia giapponese, ma soprattutto per frenare la forza della divisa nipponica. Per gli operatori sono insufficienti, e questo appunto ha ridato di nuovo il là agli acquisti su questa divisa, che per qualcuno è addirittura considerata una sorta di rifugio, ma insomma questo movimento ha portato anche gli acquisti su altre divise ritenute appunto proprio valute rifugio, come il franco svizzero, che ha toccato i massimi dell'anno sul dollaro e ha aggiornato anche il suo record storico nei confronti dell'euro. Questo è il quadro di questa mattina. Intanto euro su dollaro a 1,2689, euro su yen a 107,09, dollaro su yen a 84,40, euro su franco svizzero a 1,2944. In tutto questo le borse cosa fanno? Sono negative, sono partite molto male stamattina, anche perché sono state trascinate al ribasso dal Nikkei, che ha chiuso a Tokyo con un calo di 3,5 punti. In avvio le borse europee perdevano 1,5 punti, poi si sono risollevate, ma il quadro rimane in rosso. Parigi perde un punto come Londra, anzi Londra adesso meno 0,8, Francoforte meno 0,73, c'è il dato stabile sulla disoccupazione tedesca in agosto. Milano oggi si contraddistingue perché sta perdendo meno delle altre piazze, meno 0,65%. Abbiamo acquisti su Ansaldo, più 2,65% in questo momento, miglior titolo in assoluto. A distanza segue Prismian, più 0,3%, Snam e Retegas, più 0,14%, Ansaldo per la Galassia Finmeccanica, naturalmente movimento anche per le prospettive economiche in Libia alla luce della visita di Gheddafi in Italia. In calo Intesa San Paolo perde il 2,24%, c'è una revisione di giudizio da parte degli analisti di Goldman Sachs sul prezzo delle azioni. Fiat ed Exor perdono l'1,8% dopo i dati sulle immatricolazioni che in agosto appunto sono pessimi. Fondiaria meno 1,64, Pirelli meno 1,61, Generali meno 1,54%. Abbiamo un calo di un punto e mezzo anche per Impregilo e Buzzi Unicem. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, ritorniamo su un tema che vi appassiona generalmente molto, la vita di condominio, e sentiamo allora che cosa ha stabilito nei giorni scorsi la Corte di Cassazione. Stop a liti condominiali che si trascinano nelle aule di tribunali civili già intasate da centinaia di migliaia di cause pendenti. Dopo la conciliazione obbligatoria nei casi di diverbi tra condomini, la Cassazione ha impresso una nuova svolta in materia che riguarda le tabelle millesimali, vale a dire uno dei motivi delle più feroci lotte tra vicini di casa, perché utilizzate per determinare le quote di spesa dei singoli condomini. Fino a qualche settimana fa, infatti, le modifiche delle tabelle millesimali erano pressoché impossibili, visto che richiedevano la maggioranza dei condomini. Tuttavia, lo scorso 9 agosto, una decisione della Cassazione ha imposto una revisione della normativa. Per cambiare i millesimi di un condominio servirà soltanto la maggioranza dei presenti in assemblea, purché superino almeno la metà dei millesimi totali. Una rivoluzione importante che porterà a rivedere le tante situazioni di dubbio prodottesi nel tempo. Ad esempio, sono molti i casi di evidente modifica delle metrature abitabili di un appartamento, realizzazione dei sottotetti, mansarde, fino a interi piani sopraelevati. In tutti questi casi, fino ad oggi, praticamente il calcolo dei millesimi rimaneva lo stesso, ma con la nuova normativa sarà più facile rivedere le tabelle con l'intervento di un geometra autorizzato dall'assemblea stessa. 800240024, potete già immaginare quante domande e quante richieste di intervento stiano arrivando dagli ascoltatori. Potete anche scriverci al 349-238-6666. Avvocato Correale, parliamoci chiaro. Mi pare di capire che la giurisprudenza di condominio avesse bisogno di questo chiarimento. Sì, per la verità siamo tornati alle origini, nel senso che nei primi tempi, subito dopo l'entrata in vigore del codice civile, già si era detto che potesse essere modificata a maggioranza la tabella millesimale. La giurisprudenza ha dovuto considerare due valori, e per questo è una giurisprudenza che è sempre oscillante, come se fosse un pendolo. Da un lato la tutela del singolo, perché i millesimi non servono solo per pagare le spese, servono anche per votare in assemblea, anzi servono soprattutto per votare in assemblea, e allora potevano esserci delle prevaricazioni da parte dell'originario proprietario unico, del costruttore, e andava tutelato il singolo. Poi c'è un'esigenza di stabilità nelle gestioni, perché se ad ogni assemblea io cambio le tabelle millesimali semplicemente perché formo una maggioranza, evidentemente i rapporti condominiali non possono che soffrirne. Questo momento la giurisprudenza ha segnato uno degli eccessi, uno dei punti terminali di questo movimento pendolare, e ha stabilito che l'assemblea possa a maggioranza formare la tabella e anche rivederla. Bisognerà poi vedere cosa diranno i giudici nei casi concreti, perché la formazione delle tabelle millesimali è tutt'altro che un dato indiscutibile, indiscusso, anzi finora è rimasto come argomento abbastanza sottaciuto, poco studiato, poco verificato, e probabilmente di qui in avanti si formeranno delle linee giurisprudenziali che chiariranno tutti i dubbi su un punto. Ecco, questo forse è anche il motivo per cui effettivamente ha portato anche ad alimentare un grande contenzioso all'interno della vita di condominio. E adesso su questo andremo. Io volevo anche specificare agli ascoltatori che ci fanno richiesta dei termini della sentenza della quale stiamo parlando questa mattina. È la 18477 di quest'anno ed è stata appunto emanata dalle sezioni unite della Cassazione. Proprio per questo motivo, avvocato, a maggior forza questa pronuncia? Non eccediamo neppure nell'enfatizzare questo argomento, perché in realtà questa sentenza ha dovuto fare i conti con almeno un altro paio di sentenze, sempre a sezioni unite, che saranno formate nel 99 e nel 2007. La giurisprudenza è interessantissima perché è ricca di riferimenti. Quel che è sicuro è che è difficile immaginare che si torni indietro rispetto al punto fondamentale. L'Assemblea ha diritto di intervenire nella formazione delle tabelle. Questo è un dato assodato dal quale non mi sentirei di pensare che si possa tornare indietro. Sulle forme e sugli ambiti, allora magari da qui a mezz'ora cercheremo di chiarire. Di chiarirlo. Beh, ripartiamo però da un minimo di ABC, avvocato Correale. Ci spiega che cos'è una tabella millesimale? Perché magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando, che sta diventando proprietario di un appartamento, di un grande condominio, e non sa perché fino a questo momento non è mai stato proprietario di alcunché, come si distribuiscono le spese condominiali all'interno di questo nuovo edificio che va ad abitare, e magari pensa che lo si faccia in relazione ai metri quadri della casa. Certo, contano anche quelli, ma ricordiamo che conta anche per esempio il piano in cui si abita relativamente alle spese per esempio dell'ascensore, il possesso di un garage, di una soffitta. Quindi che cos'è esattamente una tabella millesimale? Io tornerei sul concetto della tabella e su che cosa serve, a cosa serve la tabella. La tabella serve per votare in assemblea e qualche volta serve anche per ripartire le spese, ma la funzione fondamentale è quella del voto in assemblea. Per capire come viene confezionata la tabella bisogna pensare di entrare in un appartamento con una sorta di telecamera, cercare di vedere cosa c'è dentro un appartamento. Noi avremo dei locali di altezza normale, dei locali abitabili, poi abbiamo dei locali magari più alti, dei locali magari più bassi. Ecco, la altezza dei locali evidentemente incide sulla cubatura e incide anche sul valore dei locali. Poi abbiamo delle particolarità, delle nicchie sui muri, degli armadi a mulo, dei ripostigli, fondamentalmente dei ripostigli, e avrei... Che cosa è successo al telefono dell'avvocato Correale? Lo abbiamo perso improvvisamente, strano, perché non era neanche un cellulare, ma era un numero di telefono fisso. Adesso c'è la nostra Gaia Romani che naturalmente lo va a recuperare. Avvocato, dottoressa, che ha premuto lenta. Ho perso, perché io lo sentivo sempre e non so a che livello. Che le devo dire? Allora, praticamente lei ci stava spiegando che la tabella millesimale serve solamente, come dire, contrariamente a quello che penso io, che forse pensa la maggior parte delle persone, la tabella millesimale io pensavo servisse quasi esclusivamente all'elaborazione e alla distribuzione delle spese di condominio. Invece il primo ruolo della tabella è quello di, come dire, darci la nostra posizione, il nostro ruolo all'interno della... Il nostro peso all'interno all'interno dell'assemblea. Le tabelle vengono confezionate considerando due serie di elementi: la superficie corretta, perché non tutte le superfici hanno ugual valore, e poi i cosiddetti coefficienti valutativi di calcolo, che esprimono certe particolarità dell'appartamento. Ora, noi abbiamo locali più alti, locali più bassi, e questo incide. Poi abbiamo locali principali e locali accessori. Un ripostiglio vale meno di una camera da letto, una cantina vale ancora meno, un balcone vale ancora meno. E consideriamo però che il balcone può essere su una piazza, lei pensi un bel balcone su una grande piazza di Roma, oppure può essere esposto malissimo. Tutto questo incide sul valore. Poi abbiamo da 6 fino a 18 elementi correttivi di calcolo che considerano l'esposizione, il piano, la luminosità, tante caratteristiche delle porzioni immobiliari, e quindi si tratterà di rivolgersi a un geometra perché svolga i calcoli. Ripeto, su questi calcoli c'è da dire soprattutto che finora La giurisprudenza se n'è poco occupata perché, non potendosi dar luogo a revisione, la questione era poco interessante. Infatti, tanto è vero, avvocato, guardi, la fermo subito, che in alcuni condomini per la ripartizione delle spese non si prendono minimamente in considerazione le tabelle millesimali. Le faccio sentire quello che ci racconta Lida da Brescia, perché mi ha incuriosito particolarmente questo caso. Lida, buongiorno. Buongiorno. È così? Sì, allora la nostra situazione è questa: un condominio di 7 unità, 7 appartamenti, che però hanno in comune una palestra, una casa del custode, una piscina e un campo da tennis. Bel condominio, nostro... insomma, lì non ci possiamo lamentare. Il nostro condominio, che ha un regolamento di tipo contrattuale, prevede una ripartizione praticamente paritaria, per cui a prescindere dalla metratura delle diverse case, che è anche notevole, ciascuno paga per un settimo. Io volevo chiedere se questa sentenza è applicabile anche in questo caso. Lida, mi faccia capire attraverso un esempio, proprio il più banale di tutti. Ammettendo che, per esempio, lei adesso, non so se è così, abita al primo piano, paga la stessa quota. Sono tutte unità praticamente. Ah, ecco, separate. No, perché io volevo fare l'esempio dell'ascensore, la spesa per l'ascensore, ovviamente non. Ecco. Dicevo che le cose che abbiamo, diciamo, in comune sono la casa del custode, una palestra, una piscina, un campo da tennis, e quindi le spese sono state ripartite praticamente per 7, certo, a prescindere dalla metratura delle case. Se è allora, il primo esempio è nel caso del custode: è possibile vendere la maggioranza? Cioè, quindi se la sentenza è applicabile anche in questo caso. Lida, la ringrazio per averci raccontato il suo caso. Avvocato Correale, abbiamo il caso appunto di un condominio non verticale ma orizzontale. Ma è assolutamente ragionevole quello che ha sentito. I millesimi esprimono rapporti di valore tra gli appartamenti. In quel condominio così particolare accade questo, che le pertinenze valgono probabilmente più delle stesse unità immobiliari, perché è ben chiaro che una palestra, i campi da tennis e tutto il resto sono un valore talmente alto da portare sostanzialmente a far incidere pochissimo la differenza di superficie delle unità immobiliari. Quindi quello che ho sentito è ragionevole, e in quel caso probabilmente la sentenza della Corte di Cassazione inciderà pochissimo. La Cassazione ha inciso su un caso molto particolare, molto preciso, che è opportuno chiarire. È il caso in cui le tabelle millesimali servono ad un tempo per votare in assemblea e per suddividere le spese, ed è il caso nel quale i condomini non si siano dati una particolare disciplina sulla suddivisione delle spese. Per quello la sentenza di Cassazione incide, ed è, direi, la gran parte dei nostri condomini, laddove i millesimi vengono adoperati tanto per votare quanto per pagare. Avvocato Correale, sì, no, mi scusi, poi le faccio la domanda. Vorrei usare un termine di gergo che è chiarissimo per i condomini che ci si trovano in quella situazione. Quando nel nostro condominio noi abbiamo, oltre alla tabella dei millesimi di proprietà, la tabella cosiddetta delle spese generali, in realtà noi abbiamo questa situazione: da un lato alcune cose le paghiamo a secondo del valore degli appartamenti, e là la Cassazione incide moltissimo; dall'altro lato noi stabiliamo che alcune spese le paghiamo in relazione a quello che noi abbiamo voluto. Per le spese da suddividere in base agli accordi che noi abbiamo preso, la sentenza di Cassazione probabilmente incide pochissimo. No, stavo pensando, se in un condominio si stabilisce a maggioranza assoluta e tutti i condomini sono d'accordo che comunque la ripartizione delle spese va fatta secondo criteri assolutamente paritari, lei comunque suggerisce sempre che è meglio stabilire queste quote, queste tabelle, avvocato, anche quando non siano mai esistite? Allora, se in un condominio si è detto le spese le paghiamo tutti allo stesso modo e tutti concorriamo in egual misura, quello è un accordo, dico una parolaccia perché è obbligatorio, un accordo preso ai sensi dell'articolo 1123, cioè in base ad una certa disposizione di legge che parla di spese e basta. Se invece noi non abbiamo un accordo particolare sulle spese, ma ripartiamo le spese in base al valore delle proprietà, e allora noi siamo sotto l'ombrello di un'altra norma, che è l'articolo 1138, e quella è la norma sulla quale è inciso la giurisprudenza. Capito. La Cassazione ha detto: quando tu paghi le spese a seconda del valore delle proprietà, quel valore che è stato accertato una volta e che può essersi modificato perché ci sono state delle innovazioni, oppure che può risultare non congruo perché erano stati sbagliati i conteggi, Ebbene, quei valori tu puoi rivederli in ogni momento, purché sia fatto con delibera assembleare con almeno 500 miliardi. Questa è l'impostazione che deriva dalla sentenza. Benissimo. Sentiamo allora di quali ulteriori chiarimenti ha bisogno Giovanni da Genova, che lo avevamo anche all'inizio, l'abbiamo perso quando le nostre linee telefoniche sono momentaneamente andate in tilt. Giovanni, benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. Le tabelle firmate davanti al notaio, sì, come atto, in questo caso qua la sentenza decade oppure no? Volevo chiedere. Poi c'è questo, per esempio, se le tabelle, se fa riferimento anche il regolamento di condominio, dice, per esempio, che le scale devono pagare tutti in quota uguale, se in questo caso qua devono essere modificate, perché anche il regolamento di condominio è stato approvato, non solo le tabelle millesimali. Allora Giovanni, aspetti che io non sono riuscita ad interpretare bene la sua domanda, attenda lì se magari l'avvocato Coreale ha bisogno di ulteriori chiarimenti. Cosa vuol dire firmare la tabella millesimale davanti al notaio, nel momento in cui divento proprietario? È un contratto, quando si firma un contratto è un contratto, sì. Contratto non può essere, diciamo, da un'assemblea cancellato, ecco. Giovanni, è un contratto tra due persone, poi diciamo che hanno sempre valori i contratti, che poi è un contratto registrato. Sì, quello ha ragione anche lei, però se lei rende un sottotetto completamente abitabile quando prima magari era solamente un magazzino, è chiaro che magari gli altri condomini hanno anche diritto di dire la loro su questa variazione di destinazione d'uso di una fetta dell'edificio che occupano. Avvocato Correale, allora partiamo da... Ha detto cose correttissime, mi creda, ho poco da aggiungere. Dovrei soltanto insistere su questo concetto. Noi parliamo di tabelle contrattuali volendo dire due cose leggermente diverse. Sì. Da un lato, come dice l'ascoltatore, la tabella è contrattuale perché è accettata davanti al notaio nel momento in cui compriamo l'appartamento. Ecco, su questo punto la Cassazione dice il fatto che tu abbia firmato davanti al notaio non è impegnativo e non pregiudica per sempre la possibilità di cambiare. Poi occorre distinguere non tanto il concetto di come ho accettato, quanto cosa ho accettato. Se ho accettato una tabella che indica i valori delle proprietà, e allora la sentenza della Cassazione serve moltissimo. Quei valori, se sono stati calcolati male, perché chi aveva calcolato la tabella, redatto la tabella, si è sbagliato, io posso in assemblea chiedere la revisione e arrivare ai nuovi valori corretti. Se il mio vicino di casa ha recuperato il sottotetto, posso in assemblea chiedere la revisione e dire quel signore deve iniziare a pagare quello che è giusto che paghi. Quindi in sostanza anche due conflitti dello stesso tipo in due condomini diversi, avvocato Correale, potrebbe portare a delibere assembleari differenti? Occorre andare a vedere non il nome che si dà alle cose, ma l'oggetto, la sostanza delle cose. Se la tabella riguarda il rapporto dei valori è sempre rivedibile. Se invece io ho voluto, nella mia piena autonomia, darmi una disciplina per cui l'ascensore lo paghiamo tutti allo stesso modo, l'acqua non facciamo tanti calcoli, la paghiamo tutti uguale e così via, e allora quello è un accordo che rientra nel campo riservato alla libera volontà delle certo parti. Però io immagino, avvocato Correale, che il caso più diffuso in Italia sia quello del primo tipo. Assolutamente sì, noi dobbiamo immaginare questo, che le spese vengono quasi sempre pagate in relazione ai millesimi di proprietà, sono soltanto alcuni stabili particolari dove dice, per questo io ho introdotto il termine di gergo. E i nostri ascoltatori, senza stare a pensare alle discussioni molto astratte, vadano in concreto a vedere nel loro regolamento. Se c'è una sola tabella, millesimi di proprietà, la sentenza di Cassazione l'applicano per intero. Se oltre alla colonna millesimi di proprietà abbiamo un'altra colonna millesimi di spese generali, e allora dobbiamo sapere che per la colonna millesimi di proprietà la sentenza vale per intero. Su quelle millesimi di spese generali ci sono grossi dubbi sul fatto che... Che ginepraio, avvocato, mi sembrava potesse essere qualcosa di più semplice la conseguenza, diciamo, di questa sentenza. E comunque, insomma, è bene anche conoscere i termini, un po' di complicazioni invece di questa pronuncia della Cassazione, in modo tale anche da scoraggiare chi, avendo intravisto delle opportunità di, come dire, andare alla prossima assemblea con qualche denuncia perché non da fare, perché magari qualche vicino ha fatto qualche lavoro che l'altro vicino appunto non vorrebbe far passare, e allora insomma speriamo magari di voler scoraggiare anche qualche conflitto inutile. Vorrei sentire Claudia da Genova, sempre per magari all'800240024 per così cercare di capire sempre le conseguenze di questa sentenza, facendo qualche esempio pratico che forse c'è più utile. Claudia, buongiorno, anche lei ci aspetta da un pochino. Buongiorno a lei. Buongiorno, e sono quale lettrice delle Sole 24 Ore e ascoltatrice, sono ben contenta di poter aver avuto la linea. La mia domanda è questa. Abito a Genova in una zona tra l'altro residenziale, è un palazzotto, sono solo 8 appartamenti. Da alcuni anni cerchiamo sempre di non abbastanza di conciliare, nel senso di non buttarci in vertenze eccetera eccetera, che i proprietari dell'ultimo piano hanno i terrazzi abitabili, perché ci hanno fatto gazebo, insomma ci vanno eccetera eccetera, però da anni combattiamo, e loro naturalmente sempre dicono che non si vogliono dare, questa è la frase standard in assemblea, la zappa sul piede, non, i loro che sono grandi, la proprietà dei terrazzi non compaiono nella tabella millesimale. E abbiamo, ripeto, sempre cercato, e anche i vari amministratori, anni fa eravamo già arrivati che uno dei due proprietari di questi terrazzi e dell'appartamento dell'ultimo piano, poi naturalmente le cose non ci siamo arrivati. Gradirei una risposta, da giusto che abbiamo, la persona che abbiamo. Sì. Claudia, io la ringrazio. Allora, praticamente nel palazzo dove abita Claudia, questi due proprietari hanno evidentemente modificato il valore della loro proprietà, perché hanno migliorato il loro terrazzo, lo hanno fatto diventare una sorta di gazebo, adesso non ho capito bene Claudia nella descrizione che ci ha fatto, ma in ogni caso questa variazione sui millesimi non è stata apportata. Avvocato Correale, ha ragione Claudia nel voler portare questa questione in assemblea di condominio, magari approfittando di questa pronuncia della Cassazione? Assolutamente sì, questo è il caso tipico. È un caso tipico. La sentenza di Cassazione incide in maniera lineare, senza alcuna la possibilità di equivoci. Era stato messo di determinare il valore dei lastrici solari, lo si è fatto perché allora vigeva un certo principio. Oggi si è sicuri che i lastrici valgono moltissimo, e in assemblea si può chiedere che venga rivista la tabella per adeguarla un po' alle nuove situazioni, anche per rimediare al loro originario, se così ho capito. Tra l'altro c'è anche l'altra faccia della medaglia che ancora non abbiamo affrontato. Perché mai il condomino dovrebbe essere d'accordo nel variare appunto le spese che sostiene, e la sua tabella naturalmente avrà anche l'opportunità, nonostante quello che ha detto la Cassazione, di difendersi, perché ci sono molti ascoltatori che io credo temono interventi in assemblea di questo tipo tra qualche mese, e quindi stanno chiedendoci anche delucidazioni sull'opportunità o la facoltà o meno di difendersi da tutto questo. In assemblea i condomini contestano ad un condomino che ha chiuso una veranda l'aumento del valore del suo immobile e gli chiedono un maggior contributo alle spese. Se quest'ultimo non è d'accordo, diciamo, come farà, cosa che mi sembra abbastanza probabile, rispetto ai colpi di maggioranza. Esatto. Anche la maggioranza può fare dei colpi. E allora la difesa migliore è quella che è affidata alla analiticità dei conteggi. Cioè mi chiedono di pagare di più ed io una volta rispondevo: non potete farci nulla perché non avete il potere di parlare. Oggi devo modificare la risposta, devo dirgli: dimostratemi quali sono i conteggi corretti, fatemi vedere quali sono i conteggi che volete applicare, io ho diritto di esaminarli. Ora in materia bisogna considerare che c'è una parte dei conti che sono facilmente disponibili al singolo condomino, sostanzialmente i dati relativi al suo appartamento. Mi vengono a dire che ho un appartamento di 80 metri quadri, io so bene se è 80, 50 o 100. E ci sono dei dati meno verificabili, o meglio, meno agevolmente verificabili per il singolo, che sono i dati relativi agli altri appartamenti. E allora la buona difesa è dire: voglio che alla nuova tabella siano allegate le schede catastali, anche perché ormai la normativa prevede che le schede debbano essere aggiornate, in modo da verificare se le altre unità sono state fatte pesare così come debbono. Tra l'altro, proprio a dimostrazione di quanto questa questione possa essere vista ed analizzata da molteplici punti di vista, volevo leggervi una considerazione molto sintetica che ci fa un ascoltatore di Vicenza, credo, Lionello, perché dice nessuno tutela i piccoli proprietari. Avvocato Correale, io credo che questa sentenza della Cassazione sia anche una tutela per i proprietari, perché in qualche maniera si consente loro proprio di, non dico difendersi, ma proprio di tutelarsi, perché questa è la parola giusta, da come dire, da chi vuole fare della propria abitazione tutto quello che vuole, e naturalmente andando un po' a discapito degli altri. Adesso non so se lei è d'accordo, è anche una sorta di tutela per i piccoli proprietari. Sono assolutamente d'accordo, ma aggiungerei solo un concetto: oltre che una tutela nella dialettica condominiale normale, è una tutela nei confronti del costruttore. Perché molte volte la tabella millesimale non era congrua, non era corretta, perché seguiva degli interessi del costruttore. L'esempio tipico è quello dei negozi. Io so che venderò gli appartamenti, che rimarrò proprietario dei negozi, e cerco di sistemarli, sia pure nell'ambito di alcune piccole correzioni, cerco di sistemarli nel modo che mi conviene di più. Questa sentenza consente di avere una tutela al piccolo, al privato, ai condomini numerosi, ma non portatori di capitale, di fronte anche a queste piccole manovre, piccole o grandi manovre da parte del costruttore. Correale, io stamattina non so che cosa sta succedendo tra me e lei, tra i nostri telefoni, adesso la sento picchettare come se ci fosse proprio un picchio che le dà appunto tutte punzecchiature sulla cornetta. Vogliamo riprovare con l'avvocato? Adesso lo stiamo richiamando di nuovo, veramente questa mattina ci sta venendo addosso completamente tutto il mondo delle telecomunicazioni, e dire che insomma siamo in Italia. Io lo confesso, l'avvocato Correale è in Calabria in questo momento, poi tornerà a Milano nelle prossime ore, ma comunque il collegamento telefonico dovrebbe funzionare regolarmente. Adesso speriamo di recuperarlo. Intanto sento la domanda di Francesco da Roma, poi all'avvocato Correale, se nel frattempo non ha modo di sentirla gliela ripeto io. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io abito in un condominio abbastanza grande, saranno circa 100 condomini. Uh-huh. Ora sono chiaramente varie scale. Nella mia scala, chi è all'attico, che è anche diciamo il superattico, che praticamente quasi tutto a terrazzo, l'ha chiuso, ha creato un secondo appartamento. Eccolo là. Tant'è che ha diciamo doppia entrata sull'attico che sul superattico. L'attico se l'affitta e sul superattico ci abita questa persona. Ora, la domanda che io faccio è questa. Ora, al di là di vari altri abusi che ci possono essere all'interno del condominio, tipo con verande e cose varie, ma diciamo questa è la più vistosa. Esatto, quindi quella sulla quale si può intervenire abbastanza chiaramente. La domanda che faccio è questa, ovvero, oddio, più di una. Comunque, la principale è questa, anche perché poi quando si è in assemblea, quando si parla di soldi, si blocca tutto. Ma nel caso in cui appunto questa persona ha commesso un abuso, e diciamo tra virgolette siamo costretti a rifare il calcolo delle tabelle millesimali, ma il costo di questo ricalcolo lo paga chi ha commesso l'abuso o tutto il condominio? Certo, chi intenta la causa. Francesco, io la ringrazio molto. Avvocato Correale, come funziona? Come quando si perde una causa e chi è condannato, magari spesso viene condannato anche a pagare le spese legali? Allora, nella riforma del condominio è previsto che chi paga è il responsabile dell'abuso, quindi in futuro sarà esattamente così. Per ora le alternative non possono che essere due: o decide l'assemblea, e se decide l'assemblea con la delibera di cui parlavamo, 500 millesimi per rivedere i conteggi, l'assemblea non può porre a carico particolare degli oneri. Diversamente bisognerebbe fare la causa, ma verremmo dall'appa nella pace, nella brace. Per cui il consiglio che si dà è vero che il calcolo delle nuove tabelle porterà dei costi, però molto meglio sostenere quei costi, aggiornare i valori e quindi pagare ognuno il giusto e votare ognuno secondo quello che deve pesare, che non mantenere situazioni di non comunità. Quindi in sostanza, anche se mi pare di capire che Francesco sia disponibile, ma magari già paventa una discussione abbastanza accesa su chi debba sostenere questo costo in assemblea, quindi l'idea, avvocato, è quella di, se si vuole intraprendere un processo di questo tipo, bisogna pensare che l'assemblea può stabilire la nuova tabella, ma non può imporre al singolo nessun calcolo per nessun addebito particolare. Ah, ecco, e quindi chi lo paga allora questo lavoro? Se lo fa l'assemblea possono soltanto distribuirlo per millesimi di proprietà, non c'è altra possibilità, assolutamente. Vabbè, insomma, bisogna convincere i condomini che magari non volessero pagare del vantaggio futuro che si ha da questa operazione, qualora si vincesse appunto contro il condomino che invece ha, come dire, fatto tutte queste operazioni non correttamente. Chi sentiamo adesso? Abbiamo ancora qualche minuto di tempo. Michele da Bologna. Buongiorno, grazie. Grazie a lei. Senta, molto velocemente, qualche anno fa nel mio condominio con delibera assembleare sono stati autorizzati alcuni condomini ad allungare i propri balconi. Nella stessa assemblea però l'amministratore si è dimenticato di informare coloro che partecipavano all'assemblea, io ero assente, di informare che ciò avrebbe provocato una variazione dei millesimi. La cosa è stata approvata in una successiva assemblea, io ho fatto presente questa cosa qua e l'amministratore si è rifiutato di ricalcolare i millesimi. Io come mi posso comportare per obbligare l'amministratore a ricalcolare i millesimi a causa del fatto che appunto questi condomini hanno allungato i loro balconi? Grazie Michele. Avvocato Correale, questa sentenza della Cassazione dà facoltà molto a Michele, ecco, di ripresentarsi e di riproporre situazione pregressa in una futura assemblea? Sì, sì, certo, cambia molto. Finora non era possibile fare la revisione perché l'innovazione era piccola e l'azione di revisione, la causa di revisione davanti al giudice può essere proposta solo per innovazioni vaste. Invece l'assemblea potrà intervenire per ogni variazione di valori e quindi non incontra quel limite che incontrava il giudice. Obiettivamente bisogna considerare che l'aumento di lunghezza di un balcone non può incidere tanto, anche perché la superficie del balcone viene considerata con un coefficiente 0,30, che vuol dire che se un metro quadro di appartamento vale 100 euro, un metro quadro di balcone vale 30 euro, vale un terzo della superficie dell'appartamento. Quindi non si aspettino delle variazioni molto ampie. C'è un ascoltatore, io sono anche abbastanza stupita di molte prese di posizione di molti ascoltatori di questa mattina, perché io... voglio dire, anche Mario Sestro Fiorentino che ci scrive: rischiamo una dittatura della maggioranza, come può difendersi un singolo condomino? Ma io credo che in genere nelle maggioranze delle assemblee, insomma, si prendano delle decisioni che sono nell'interesse di tutti. Perché si parte dal presupposto che un condomino deve difendersi da tutti gli altri? Avvocato Correale, non è anche lei un po' stupito, per esempio, di riflessioni di questo tipo? E le assicuro che non è l'unica quella che ho letto. Stupito a metà. In realtà il nostro condominio funziona molto bene perché funziona su una doppia maggioranza, millesimi e teste. Quindi per fare il colpo di maggioranza occorre avere tanti millesimi e occorre anche essere in tanti. Quindi non è facilissimo, non sarà facilissimo fare il colpo di maggioranza. Però può accadere questo, diciamo che accade nella vita quotidiana, accade anche nelle assemblee, che un condomino particolarmente esercitato e particolarmente eloquente, particolarmente incisivo, riesca a coagulare una maggioranza su una linea di posizione magari eccessiva. Guardi che questo è il motivo per il quale la giurisprudenza finora aveva visto la revisione con una certa ritrosia. Perché non voleva metterci mano, in sostanza. Sì, esatto, perché si sa che è un mondo fatto di anche fatto di collaborazione, fatto di rapporti virtuosi, ma qualche volta può essere fatto anche di gelosie e di invidie, e la possibilità che una sera qualcuno si svegli e imponga il proprio volere è qualcosa che c'è. Però torna a ripetere, ma deve convincere comunque un altro bel gruppo di persone, certo, non è che quindi, certo, insomma, adesso... il singolo ha una tutela, che è quella di dire: fammi vedere le carte. Cioè ci rivolgiamo a un tecnico e voglio vedere i conteggi che fa questo tecnico, perché occorre che mi dica qual è la superficie del mio appartamento, quali sono le caratteristiche del mio appartamento. Non può fare la nuova tabella senza essere entrata a casa mia, a casa anche degli altri. Per cui la questione si può proporre, certamente ci saranno delle situazioni limite, ma nella fisiologia e nella gran parte dei casi il singolo potrà avere una forma di tutela. Avvocato, noi abbiamo terminato la nostra trasmissione. Giuliano da Venezia, non riesco a sentirlo, ci scriva Giuliano, così come tutti gli altri ascoltatori che sono stati tantissimi stamattina e non siamo riusciti a raccontare. Io so che l'avvocato Correale ci aiuterà come sempre a rispondere in privato a tutti, ma insomma, come dicevano sia Saverio Fossati sul Sole 24 Ore che Gino Pagliuca sul Corriere della Sera, con questa pronuncia della Cassazione si è spezzato un tabù e quindi avremo avremo un settembre, un mese di ottobre, comunque prossimi mesi ricchi di contenziosi in condominio, o comunque insomma aspettiamo anche una sorta di applicazione abbastanza graduale di tutto quanto permetterà questa pronuncia, avvocato? Hanno molto maggior buon senso. Di quanto non si creda, e quindi certamente ci sarà un'evoluzione graduale. A nessuno piace spendere a vuoto, dare incarichi professionali per rivedere le tabelle così, giusto per vedere. E insomma, speriamo che poi gli amministratori di condominio dovranno essere anche molto bravi a far ragionare tutti, a fare una corretta valutazione dei pro e contro anche di l'attivazione di contenziosi di questo tipo. Avvocato, devo salutarla. Buon proseguimento di vacanza. So che sono agli sgoccioli le sue ferie, ma io la richiamo presto per valutare anche che cosa sta succedendo in queste settimane grazie a questa sentenza. Presto, avvocato Correale, buona giornata. Grazie. Grazie anche a Gaia Romani per la collaborazione in redazione. Noi ritorniamo di Salva Danaio naturalmente domani. Buona giornata a tutti.